La principessa cieca di Ugo Betti. La povera principessa, quando suona la campana della sera, chiama la sua sorellina e si fa pettinare davanti alla specchiera. Allora sente due piccoli mani sfiorarla, come uccellini. Sente il pettine passare dolcemente nei capelli fini. Poi sente i broccati frusciare e poi freddi, massicci gioielli sente gravare sui capelli. E così tutta si copre di perle d'oro vecchio, la principessa cieca seduta davanti allo specchio. E ad un balcone sole sole se ne vanno le due sorelline. Si dicono lievi parole sotto le dondolanti stelle. Sorellina, che sarà questa ambasciata? Sarà la luna che tutta ti fascia. È nata su di un campanile per mettere un lume in ogni tuo monile. Sorella, come sono stasera? Sei tutta bianca. Sei come una che ascolta una musica e un po' poco si curva come stanca di portare tanti gioielli, tante tracce di capelli. Ma quando rintoccano le ore, da tutte le torri assorte, la principessa si fa rossa, il cuore le batte forte forte. Ascolta curva sulla via, e allora la sua sorellina sempre le dice quella bugia, e le sussurra che egli è venuto, il suo corteggiatore sconosciuto. Sorellina, sorellina, com'è? Cammina nell'ombra, è come il figlio d'un re. Sorellina, come si chiamerà? Nell'ombra cammina, guarda questo balcone, assai dolce sarà il suo nome. Sorellina, come sarà che non si sente camminare? È nata l'erba nella contrada, è come un velluto ingemmato di rugiada. È nata l'erba tra i neri sassi. Egli cammina, ma non sodono i passi. Ecco, svolta laggiù, è passato, non si vede più. E ad un balcone sole sole restano le due sorelle. E in più non dicono parole sotto le lontane stelle. La notte è come un nero mare, con qualche lumicino ad ondolare. Come fredda la tua manina, perché sospiri, sorellina?